Questo è il nostro rapido riepilogo sulla cattedrale di Avila. Immagina un capolavoro spagnolo, iniziato nel XII secolo, che rappresenta una fusione davvero straordinaria. Non è solo uno spazio di spiritualità, ma una vera e propria fortezza incastonata nel tessuto difensivo della città. Primo, la sua natura ibrida e letteralmente rivoluzionaria. Iniziata nel 1172 sotto la direzione del maestro Frukel, dovete sapere che è considerata la prima cattedrale gotica di Spagna, ma attenzione, fu progettata per essere sia tempio che struttura militare. Il suo massiccio abside, popolarmente noto come il Cimorro, è infatti letteralmente inglobato nelle mura difensive di Avila e funge in pratica da uno dei torrioni più robusti dell'intera città. Secondo, c'è il dettaglio visivo assolutamente mozzafiato della cosiddetta pietra sangrante, la pietra sanguinante. Si tratta di una roccia arenaria locale usata nella parte più antica dell'edificio e famosa per le sue spettacolari venature rosse di ossido di ferro. È pazzesco notare come questa roccia scura si fonda visivamente con l'evoluzione verso un gotico molto più luminoso e raffinato, avvenuta poi nei 3 secoli di costruzione successivi. Infine, non possiamo ignorare l'inestimabile valore artistico degli interni, che la rendono orgogliosamente patrimonio dell'umanità UNESCO. Cito obbligatoriamente 2 capolavori assoluti: il retablo dell'altare maggiore, iniziato nel 1499 dal celebre pittore Pedro Berruguete, e il maestoso sepolcro in alabastro del vescovo Alfonso de Madrigal, insomma quello che tutti chiamano il Tostado, finemente scolpito da Vasco della Zarza proprio dietro l'altare. La cattedrale di Avila rimane la dimostrazione perfetta di come, nel turbolento medioevo spagnolo, la salvezza dell'anima e la difesa della città condividessero letteralmente le stesse formidabili mura di pietra.